Ero anche abbastanza contento, il treno stava in orario. Io avevo la testa chinata nello scrivere, cappello, cappotto, perché era d'inverno. In un attimo io ho sentito una specie di tonfo, non uno scoppio, una specie di tonfo, come se una cosa... A un certo punto c'è stata una tremenda esplosione. Un capovolgimento completo della situazione. Mentre si sta chiacchierando, si sta ridendo, cioè all'improvviso, proprio una frazione di secondo. Lo spostamento d'aria mi ha buttato ai piedi delle persone che erano nel compartimento. Fu investita da questi vetri e li avevo dappertutto. Nel momento in cui ci si rende conto di quello che sta succedendo, è già successo. Ho avuto, diciamo, una flebile percezione di stare... di morire. Ci trovavamo un po' al buio, forse c'era luce nei corridoi. Non si sa se si è in galleria, fuori galleria, se si è all'interno, all'esterno. Non percepivo il corpo, ma solo il cervello e solo questo lumicino che mi legava alla vita, no? Cosa è successo in quel momento? È successo tutto. L'istinto è stato portarmi nel freno di servizio per poter dare l'allarme. Non mi sono reso conto che appena sono arrivato per tirare il freno, se ho tirato il freno eravamo quasi fermi. C'è stato anche l'impatto violentissimo di una carrozza sull'altro, di un vagone sull'altro, perché si è fermato all'improvviso. La gente gridava e le porte del treno erano state forzate, qualcuno era già sceso giù sui binari. C'era gente che urlava in maniera straziante, forse urla che non ho mai sentito, insomma, così, proprio così da dentro, così dal cuore, così dalla disperazione. Madre con i bambini feriti, l'altro, cioè, indescrivibili. Le urla, le grida, il terrore, il panico, scene viste tante, troppe volte nella storia del terrorismo e delle stragi in Italia. È quella stessa galleria... Per giunta esattamente 10 anni prima è stata il teatro di un altro eccidio, la bomba sul treno Italicus. Intanto, subito dopo l'esplosione da Vernio all'estremità toscana della galleria, un gruppo di ferrovieri e di medici prova a entrare nel tunnel per prestare i primi soccorsi ai feriti. Quanto che, volendo anche andare avanti, ma i dottori hanno cominciato a tossire, non respiravano più, è meglio tornare fuori, qui ci si affoga. Siamo tornati indietro. Ci ha riempito le narici per tutto il tempo, proprio fumo, non si riusciva a respirare. Ho pensato che come noi non riuscivamo a respirare, che i superstiti dall'altra parte fossero tutti morti. Non era bruciato in plastica, io avvertivo proprio l'odore a presente quando si brucia la carne. Il vento che a noi ha impedito di entrare e superare questa barriera di fumo, allora ha consentito di vivere. Io quando sono entrato in galleria, la seconda volta, che ho cominciato a vedere un braccio, poi ho visto un piede, poi ho visto la testa. Di una pioggia, una mora bella, la testa lì, e mi è venuto non so che. Però il nervoso che avevo in corpo in quel momento lì, se c'era il corpo lì l'avrei messa lì attaccata a vedere se riuscivo a farla rivivere ancora, sta persona, sta ragazza, perché era una ragazza sicuramente giovane. Le immagini dei funerali delle stragi si somigliano tutte. Piazze gremite, fischi alle autorità, parole di sdegno. E sguardi fissi sulle bare, allineate per testimoniare che il dolore per le vittime non è un fatto privato, ma riguarda tutto il paese. Questa volta no. Questa volta i familiari delle vittime rifiutano i funerali di Stato. I morti verranno commemorati separatamente, ciascuno a casa sua, lontano dalle cerimonie ufficiali. Un segnale dal valore simbolico fortissimo.